Europa 24. Un saluto da Gigi Donelli. Oggi alle 17 in apertura della sessione plenaria di Strasburgo l'Europarlamento serverà un minuto di silenzio in ricordo delle vittime del naufragio di Lampedusa. In serata, naturalmente sempre nella plenaria di Strasburgo alle 20:15, gli eurodeputati parteciperanno invece ad una fiaccolata. Insomma, un'Europa che sembra, mi riferisco ovviamente all'Europa istituzionale, che sembra essere finalmente, direi, particolarmente colpita dagli eventi, anche se nelle ultime ore c'è anche chi ha voluto, come dire, mettere di fatto i puntini sulle i, definendo, rispondendo alle accuse che di fatto si riversano sulle istituzioni europee rispetto proprio a questi eventi. Tra questi abbiamo scelto il pensiero di Nicola Delcroix, che è capo del Servizio Europeo per l'Azione Esterna. Delcroix sostiene che non è vero che l'Europa non stia facendo nulla sul fronte della migrazione, dice anzi le cose potrebbero andare molto peggio, ma sentiamolo. De ce qu'on vit maintenant, il faut quand même considérer qu'il y a des situations. Dice appunto, potrebbero esserci delle situazioni anche peggiori da quelle che stiamo osservando adesso. Ci sono delle situazioni complesse sul quale l'Unione Europea interviene da tempo. È difficile aussi pour nous d'intervenir dans les pays d'origine. È difficile, dice, intervenire nei paesi d'origine. Au quotidien, ça c'est important. Il limite de toute façon l'impact e la nostra attività, dice, limita comunque l'impatto di questi fenomeni, in particolare se riferisce appunto alle iniziative assunte nel corso degli ultimi due anni dall'Unione sul fronte del Mediterraneo meridionale. Ma è certo che questa questione, al di là appunto della tragedia di questi giorni, verrà finalmente a trovarsi al centro di una scelta comune e politica dell'Unione Europea. Intanto i lavori della sessione plenaria. Domani infatti il Parlamento europeo discuterà e voterà la direttiva antifumo già approvata dalla Commissione Salute del Parlamento europeo. Prevede immagini shock sul 75% del pacchetto di sigarette, il bando ai pacchetti da 10, alle slim, alle light, alle aromatizzate, al mentolo, alla frutta. Un voto il cui esito però non è affatto scontato. E di questo ci parla Oreste Rossi, deputato del Partito Popolare Europeo, al microfono di Laura Bettini. Che passi la direttiva? Sì, bisogna vedere come passa e in particolare con che percentuale di pacchetto dedicata a, diciamo, all'antifumo, alle negatività del fumare. Ancora in ballo la questione delle light, sì o meno come sigarette, delle slim sempre come sigarette, del pacchetto da 10 e in particolare degli aromi. E nel PPE sta prevalendo la linea di dire sì alla lista originale, ma con uno slittamento di 8 anni per il mentolo. Il mentolo ha un impatto minimale in Italia, ma ha un impatto importante ad esempio in Polonia e in altri paesi dell'est. Poi sulle coscienze, lei ha ragione, dipende dalle persone. Io personalmente credo che vietare il fumo ai minori di 18 anni sia giusto, dare informazioni dettagliate sia giusto, esagerare non sia corretto, anche perché ho paura che troppa repressione porti a un aumento sconsiderato del contrabbando di sigarette. Spesa pubblica e bozze di bilancio 2014 per i big europei. Parigi mette sul piatto tagli per 15 miliardi di euro, Madrid interviene sulla pubblica amministrazione, insomma la finanziaria degli altri raccontata da Chiara Bussi. Una nuova sforbiciata alla spesa pubblica senza ritocchi alle tasse di famiglie e PMI. Che sia la virtuosa Germania, l'ex prima della classe Olanda, la Francia che arranca o la periferica Spagna, è questo il filo rosso che unisce le bozze di bilancio per il 2014 dei big europei. Mentre il governo italiano è al lavoro per presentare la legge di stabilità entro il 15 ottobre a Bruxelles, gli altri paesi hanno già fatto i compiti a casa. Parigi mette sul piatto tagli per 15 miliardi, dei quali ben 6 alla spesa sociale. Madrid promette di abbattere del 4,7% le uscite della pubblica amministrazione e persino il premier Rajoy si congela lo stipendio per il terzo anno consecutivo. L'Olanda annuncia tagli per 6 miliardi su sanità, macchina burocratica e pensioni minime. In controtendenza alla Germania, al sicuro sui conti pubblici. Berlino pone un freno alla spesa improduttiva, ma alza di 1 miliardo la dote per famiglie e previdenza. Per tutti, la pagella di Bruxelles, con possibili correzioni di rotta, arriverà a metà novembre. Chiara Bussi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Europa 24 continua, come sempre, sul web e torna domani alle 14. Un saluto. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.